Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. I dati della Caritas col rapporto sull'immigrazione in questi giorni ci hanno detto che tanti immigrati rimettono in piedi un sistema che usavano i nostri nonni, cioè quello della cassa peota. Mancando i soldi si mette insieme una piccola parte in modo da poter aiutare chi ha bisogno, e proprio per tornare a cose antiche sembra che stia tornando anche il baratto, cioè non si paga in moneta ma si paga con altra merce. Di questo parliamo con l'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori, con il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti. Allora, è proprio così, voi avete fatto un'indagine che ha portato a questa scoperta, no? Il baratto è tornato di moda. Sì, allora, siccome in questo periodo di crisi riceviamo molte segnalazioni su quelli che sono le strategie che le famiglie adottano per arrivare a fine mese, abbiamo pensato di lanciare un'indagine per capire anche per quanto riguarda il fenomeno del baratto, tenendo conto appunto delle numerose segnalazioni che ci hanno indicato come il baratto una strategia di sopravvivenza, lo conoscono, e cosa le persone in questa forma di scambio o di mercato, definiamolo così, barattano più comunemente per cercare appunto di garantirsi quelli che sono i beni primari o scoprire le loro esigenze. Questo tenendo conto appunto di un dato che vuole ritornare indietro di 2 anni e capire che percentuali e che numeri, in particolar modo nella provincia di Venezia, se ne può parlare. Ecco, infatti voi avevate fatto le stesse domande, la stessa indagine 2 anni fa, e c'è stata una crescita, un'impennata. Sì, abbiamo fatto un'indagine del genere 2 anni fa, però questa volta abbiamo voluto rivolgerla a un numero molto ampio di persone, parliamo a 10.000 persone. Chiaramente non hanno risposto, anche per fortuna, a tutte 10.000, ma sono state 500 le persone che nel giro di 3 giorni hanno risposto. 500 per noi è stato un numero significativo, e per cui riteniamo che i dati che andremo a snocciolare possono essere dei dati che possono essere presi in considerazione come un sufficiente campione rappresentativo. Allora, il baratto, abbiamo capito che la gente sa cos'è, sa che esiste, e che cosa si baratta allora? Allora, innanzitutto dobbiamo dare un'informativa, come abbiamo dato noi alle persone. Abbiamo detto che il baratto innanzitutto lo definiamo come un mezzo per scambiare oggetti e servizi senza circolare di denaro. Quindi la domanda era molto, l'indagine era rivolta proprio a persone a cui abbiamo chiesto cosa hai fatto e cosa hai barattato, però mi raccomando, non ci deve essere stata in nessun modo circolazione di denaro. E cosa è emerso? Innanzitutto, come primo dato, che un veneziano su 4 nel 2010 ha barattato qualcosa, però se la percentuale di chi conosce o l'ha, cioè se di chi lo ha utilizzato come forma di pagamento è stato il 25%, quello che ha più impressionato è stato il grado di conoscenza, il numero delle persone che hanno ricorso a questo modo di comprare le cose, ed è emerso un dato come più 120% negli ultimi 2 anni. Cosa vuol dire? Che rispetto a 2 anni fa sono aumentate di 120 le persone che hanno utilizzato questa forma di acquisto, mentre in un'ottica di analisi complessiva un veneziano su 4 lo ha utilizzato. E quindi sempre di più magari ci si scambia favori, non so, uno ti fa, io faccio un lavoro a te, tu fai un lavoro a me, come funziona? Allora, innanzitutto quello che è stato il dato più importante è stato proprio uno scambio di merce. Praticamente come funziona? Funziona che le persone, risulta che il 30% del campione ha barattato proprio merce quali vestiti, scarpe e accessori. Ma un altro dato molto importante, il 22%, sono state le competenze di mano d'opera, in particolar modo quelle legate alla casa, cioè l'intervento elettricista, l'idraulico, il tinteggiatore e il giardiniere. Mentre un altro 22% sono stati per esempio l'ospitalità in hotel, nelle seconde case, in alloggi messi a disposizione tra parenti o amici. E dopo passiamo agli oggetti, quali accessori per la casa e gli articoli più in generale, sempre per la casa un 27%, e abbiamo addirittura trovato le consulenze professionali l'8%. Cosa vuol dire? Che anche tra consulenti ci si è un po' messi d'accordo, io ti do una consulenza, non so, in ambito commercialista, tu mi dai, non so, una consulenza per quanto riguarda un aspetto di termoidraulica o appunto pensiamo ai legali, come pensiamo ai medici, come pensiamo ai dentisti, quindi c'è anche una forma di baratto che si rivolge anche alle imprese. Eh sì, vedo che a parte magari i vestiti o gli accessori, tutto il resto, diciamo, sono dei beni, delle cose che hanno non sono strettamente beni primari, cioè non si è ancora arrivati all'alimentare nel baratto. Non si è arrivato all'alimentare, c'è stato un dato un po' più generico che non abbiamo voluto considerare, intorno al 5% come varie, dove la gente ha scambiato in particolar modo i prodotti del giardino. E persone che coltivano dei prodotti a casa o in orto o addirittura in terrazza e li ha barattati. Poi ci sono altri fenomeni come quelli legati alla banca del tempo, dove le persone hanno messo a disposizione il loro tempo per prestare dei servizi, pensiamo, non so, babysitter, e in cambio ne hanno ricevute altre, come magari accudire il cane durante il periodo delle ferie e via dicendo. Però certamente anche i generi alimentari, in questa ottica di grandi numeri, non si è sottratto, ma per fortuna non ha ancora una parte, diciamo così, rilevante da poterla considerare come estremo fabbisogno di arrivare a sopperire quelle che sono delle esigenze determinate anche proprio da doversi sfamare, anche se abbiamo parlato appunto di quante persone sempre più oggi si rivolgono alla Caritas, dove proprio dicevamo che sono oltre 6 milioni le persone che negli ultimi 6 mesi si sono, per un motivo o un altro, sono andate a mangiare nelle mense delle Caritas. E comunque il baratto alla fine funziona, insomma è vecchio come il mondo, il baratto funziona anche nel terzo millennio. Sì, è vecchio come il mondo, ma è significativo appunto il numero, più 120% negli ultimi 2 anni e una persona su 4 addirittura. Tant'è che appunto quando abbiamo chiesto dove ne hanno sentito parlare, su internet, su Facebook o sui mezzi televisivi come radio e TV, sono stati diciamo quelli che sono state le notizie di cui queste persone ne hanno ricevuto. Noi come Adico addirittura adesso stiamo pensando di allestire una sezione specifica del sito, dove ci vorrà un po' di tempo per farlo, ma credo qualche settimana, dove daremo modo alle persone di poter mettere sulla bacheca delle cose che vogliono barattare e molti quindi poterle scambiare, perché proprio in virtù di questa indagine, devo dire, abbiamo ricevuto centinaia e centinaia di mail dove ci hanno chiesto: ma visto che c'è questa cosa, visto che si sta diffondendo, visto i numeri, visto l'importanza, perché voi come dell'Adico non pensate di fare qualcosa e metterci a disposizione uno strumento che possa noi indirizzarci e poter barattare quelli che sono anche i prodotti che possiamo scambiare, pensiamo anche ai vestiti dei bambini piccoli che sono cresciuti, gli accessori come abbiamo detto della casa. E in questo senso abbiamo deciso anche di allestire una specifica sezione, che magari più avanti approfondiremo anche questa cosa qui in una prossima intervista, ma di cui, come vedo, abbiamo deciso di prendere in considerazione anche le segnalazioni che abbiamo ricevuto. E allora www.associazionedifesaconsumatori.it per approfondire questa nuova moda, ma direi più modalità che moda, del baratto. Grazie a Carlo Garofolini, non ci sentiamo giovedì perché è festa, ma ci sentiamo comunque venerdì mattina. A presto. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.